24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Benvenuti a 24 ore in Europa, un saluto da Anna Marino. Il premier Mario Monti è stato ricevuto dall'omologo spagnolo Mariano Rajoy in occasione del vertice italo-spagnolo. Nel quarto incontro bilaterale quest'anno tra i due premier, la Spagna chiede un'Europa solidale e insieme all'Italia persegue non solo l'interesse dei due paesi, ma anche dell'Europa, e Monti fa il punto anche sulla situazione politica italiana. Minacce di ritiro della fiducia a questo governo non possono essere fatte, non perché non possa essere ritirata la fiducia, ma perché non lo vivremmo come una minaccia. Aspetta due giorni il premier Mario Monti prima di rispondere al predecessore Silvio Berlusconi, forte della indubbia considerazione internazionale che Berlusconi, come dimostrano i mercati in ribasso, pare aver perso. L'attuale premier serve freddo il piatto della vendetta con una replica pacata che chiude ogni spazio di trattativa. Monti ricorda come il suo governo sia stato chiamato in una fase drammatica per salvare il paese dal tracollo finanziario, per cui lascia intendere una nuova destabilizzazione nella leadership non danneggerebbe l'attuale esecutivo, che continua a lavorare con l'orizzonte temporale dell'aprile 2013, ma danneggerebbe piuttosto l'Italia. Monti usa il linguaggio dell'allusione per tratteggiare i rischi derivanti dal ritiro della fiducia. Chiedetelo ai mercati. E la memoria va ai drammatici giorni di un anno fa, quando furono proprio i mercati a sfiduciare Berlusconi. Sul fronte europeo Monti si concede una divergenza di vedute con il presidente della BCE Mario Draghi, che aveva rilanciato l'idea di un supercommissario comunitario per i bilanci nazionali. Per il premier si rischierebbe di lanciare segnali sbagliati sul malfunzionamento degli strumenti attuali di controllo. Sul ricorso allo scudo antispread, infine, Monti e il premier spagnolo Rajoy, che professano amicizia e collaborazione reciproca, sembrano divergere, anche se leggermente. Il premier italiano si limita a rivendicarne la paternità, ma non lo vede come una scorciatoia per risolvere i problemi. Lo spagnolo lascia invece intendere che Madrid lo chiederà, ma solo quando sarà il momento. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. La zona euro è sul punto di uscire dalla crisi. Arrivano parole di ottimismo anche da parte del presidente francese François Hollande nel corso di una conferenza stampa all'OCSE di Parigi con i grandi leader delle organizzazioni economiche internazionali. L'Italia sta ancora facendo sforzi considerevoli sul risanamento dei conti pubblici, ha aggiunto Hollande, rivendicando come assieme a paesi come l'Italia si sia messo nell'ambito delle strategie economiche dell'Unione Europea altrettanta importanza al rilancio della crescita di quanta ne abbia il risanamento dei bilanci. La Germania è contraria all'ipotesi di un nuovo taglio del debito della Grecia, che dopo quello compiuto dai privati ristrutturi i crediti concessi dagli stati o altri soggetti pubblici ad Atene. Voce circolata sulla stampa tedesca che la attribuisce alla Troika. Proposta che, secondo quanto rivelato dal settimanale Der Spiegel, sarebbe stata avanzata dalla Troika giovedì scorso durante una riunione preparatoria di esperti per il vertice dei ministri delle finanze dell'Eurozona del 12 novembre. È una riunione straordinaria dell'Eurogruppo in teleconferenza dedicata alla Grecia. Si svolgerà domani mercoledì nel primo pomeriggio. Lo ha reso noto un portavoce della Commissione europea e lo ha confermato il portavoce del presidente Jean-Claude Juncker. L'appuntamento è stato convocato per fare il punto della situazione dei febbrili negoziati in corso tra Atene e l'Unione europea sui prossimi aiuti alla Grecia, anche se al momento attuale non c'è ancora un accordo definitivo tra i partiti greci e a sua volta tra il governo di Atene e la Troika. La richiesta di convocazione lascia sperare che per mercoledì si arrivi al dunque. Senza nessun cambio di rotta nelle politiche, l'Unione europea nel 2020 avrà ancora una media del 28% di rifiuti urbani che finirà nelle discariche, e questo è lo scenario previsto dall'ultimo rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente su risorse materiali e rifiuti, che prevede che la media del riciclo dei rifiuti urbani arrivi al 49% nel 2020, numeri non in linea con la strategia della Commissione Europea, che punta a eliminare l'immondizia in discarica e a limitare la produzione di energia solo ai rifiuti non riciclabili. In Italia viene ancora interrato il 40% dei rifiuti, mentre in 6 stati virtuosi, Belgio, Danimarca, Germania, Austria, Svezia e Olanda, la stessa percentuale si ferma al 3%. Vediamo ora com'è andata la giornata di borsa europea. Con Wall Street chiusa in attesa dell'uragano Sandy, le borse europee erano infilate un'altra seduta negativa. Milano, -1,5%, si rivela la peggiore dei principali listini per i timori, dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, di una crisi del governo Monti. Ma il no tedesco al taglio del debito greco e l'attesa per i dati sul PIL spagnolo di oggi mandano in rosso anche Francoforte, -0,4%, Parigi, -0,7% e Londra, -0,2%, mentre Atene crolla

mondo vi sta guardando e un giorno sarete chiamati a rispondere per tutte le violazioni dei diritti umani. E con questa notizia è tutto, 24 ore in Europa si chiude qui, vi lasciamo alla programmazione di Radio 24, Sole 24 ore. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.